siamo ancora in una situazione in cui milioni di elettori cercano una casa politica e non si definiscono né di destra né di sinistra né popolari né socialdemocratici, restano a casa, sono stati disposti a votare Grillo ora probabilmente dopo averlo visto in Azione compose da Dittatorello, da Web, hanno cambiato idea. Hanno usato Renzi alle primarie, però poi se ne sono distaccati, magari guardano con simpatia Crosetto, insomma c'è un caos assoluto. Allora penso che in questo senso nella campagna elettorale bisogna dare offerte precise. Quella di Bersani è un'offerta molto precisa, forse troppo precisa, ha un'identità molto chiara, il Partito Socialista Europeo, il riferimento ai progressisti di Francia, di Germania, quell'identità lì. Una certa vaghezza sui programmi, perché la carta di intenti firmata anche da Vendola è generica, in tutte le tribune che ci sono state durante la campagna per le primarie Bersani c'ha questo refrain: cambieremo un po', rifaremo un po', riscriveremo un po' la spesa pubblica, insomma tesa molto a rassicurare. Ora io credo che se Monti scende in campo giocherà da un lato la stessa carta, cioè rassicurare, dare sicurezza, dare solidità, ma anche un cambiamento più spinto sulla sua agenda, dicendo che lui non è riuscito a fare tutto quello che poteva fare perché c'erano i partiti che lo frenavano. Da questo punto di vista è uno strano mix, perché il professore pedagogo, ricorderai l'intervista che gli ha fatto Federico Fubini in apertura del libro che raccoglie i testi di Monti sul Corriere della Sera, lui ha detto: sì, io ho una vocazione pedagogica nei confronti degli italiani, quindi il pedagogo Monti, che però fa anche un appello invece tipicamente populista, e ti segnalo che proprio questa mattina il portavoce di Bersani Stefano Di Traglia in un Twitter ha detto: l'appello di Monti è un appello populista, una lista che porta il suo nome, quindi è un curioso mix, il professore che fa appello direttamente al popolo sopra i partiti. Questo è uno scenario del tutto inedito, del tutto inaspettato.